Italia in controluce. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Italia in controluce, oggi puntata dedicata all'assemblea di Confindustria. 349-238-6666 il numero per i vostri sms se volete commentare in diretta quello che vi racconteremo nel corso di questa trasmissione, quello di cui parleremo. Dice il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi che il nord è sull'orlo di un baratro economico che trascinerebbe tutto il nostro paese indietro di mezzo secolo, escludendolo dal contesto europeo che conta. Questa forse è la frase più forte dell'intervento di Squinzi in una giornata che naturalmente è come d'uso per l'Assemblea di Confindustria, ha visto anche l'intervento del Presidente del Consiglio Enrico Letta e del Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato. Dunque ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta che ha seguito i lavori questa mattina. Vincenzo, buongiorno innanzitutto. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori, Simone. Andiamo sui contenuti di questa mattinata, insomma, di questa mattinata intensa, poi sentiremo anche qualche voce, la voce appunto del Presidente del Consiglio Letta, del Presidente di Confindustria Squinzi. Vincenzo. Sì, i contenuti direi di partire brevemente dal Presidente di Confindustria Squinzi, perché lo anticipavi tu, la notizia del giorno mi sembra quella che dopo decenni di questione meridionale del sud, del mezzogiorno, come lo vogliamo chiamare, si è aperta ufficialmente oggi il problema del nord, del settentrione, l'anima pulsante economica del nostro paese, secondo Squinzi è sull'orlo del baratro, vedere cadere eventualmente quest'area così produttiva del nostro paese potrebbe avere effetti economici pesantissimi sul resto del paese, questa è la prima notizia. L'altra è che il Presidente del Consiglio Letta, parlando agli industriali, ha detto siamo dalla stessa parte, lo voglio ribadire, questo ha detto Letta probabilmente dopo anni di distacco della politica dalle esigenze, dalle necessità del mondo produttivo, secondo Letta quindi si potrà passare, Simone, dalle parole ai fatti e il governo di larga intesa evidentemente sarà dalla parte di chi produce e lavora. Ecco, proprio a proposito di questo, Letta è voluto intervenire più specificatamente sull'industria manifatturiera, segnalando che la volontà del governo è rimetterla al centro. Dunque, ascoltiamo questo passaggio. Noi possiamo forse dire che è finito il girone di andata. Il girone di andata che è durato per più di un decennio, quando si è pensato che l'Italia e l'Europa potessero fare a meno dell'industria. Quando si è pensato in Europa che l'industria potesse essere terreno di altri continenti e in Europa si potesse fare crescita senza l'industria, mantenendo solo magari la testa e lasciando perdere tutto il resto. Io penso che questo girone di andata sia finito con risultati, secondo me, non positivi. L'Europa ha perso leadership industriale nel mondo e oggi dobbiamo tutti sapere che il grande obiettivo che dobbiamo prenderci invece è quello di fare di una nuova leadership europea nel campo industriale uno dei grandi obiettivi. L'obiettivo che dobbiamo darci è che nel 2020 dobbiamo raggiungere il 20% di percentuale di PIL prodotto da industria, dal manifatturiero, dalle nostre attività creative in Europa e in Italia. Questo è l'obiettivo a lungo termine di Enrico Letta, il quale naturalmente ha parlato, come avete sentito, di crescita. Sul tema della crescita naturalmente si è soffermato proprio anche il presidente di Confindustria Squinzi, con una sostanziale apertura di credito al governo, però vincolata al fatto che questo sia appunto il governo della crescita. Sentiamo Squinzi. Serve una netta discontinuità con le logiche di breve respiro che hanno ispirato molte delle politiche del passato. Le imprese sono pronte a rispondere e a supportare l'azione del governo con investimenti e occupazione. Confindustria insiste da tempo su misure concrete per l'aumento rapido del tasso di crescita e dell'occupazione. Queste misure non sono a costo zero, ma a saldo zero. La differenza sta nel coraggio di applicarle. cioè di dare vita a una vera politica di qualità del bilancio pubblico, di ricomposizione delle entrate e delle uscite, in modo da promuovere la crescita senza intaccare la solidità del bilancio stesso, anzi rafforzandola proprio grazie ad una crescita più elevata. Senza interventi decisi e concreti, la crescita del Paese non supererà per molto tempo lo 0,5% all'anno, del tutto insufficiente a creare lavoro e a risollevare i destini di tantissime imprese. Se questo sarà il governo della crescita, noi lo sosterremo con tutte le nostre forze. Della crescita e del lavoro, perché la mancanza del lavoro è la madre di ogni male sociale. Va affrontata in maniera strutturale e con equilibrio, intervenendo sul costo, sulla produttività, sulle regole. Ci scrive in maniera molto meno elegante di come ve la leggerò io via SMS al 349-238-6666 un ascoltatore, parlando di Letta, che con queste metafore calcistiche ha un po' rotto le scatole. A proposito del Nord sull'orlo di un baratro economico, ci scrive un altro ascoltatore invece: il Sud invece è già defunto. Siamo sempre sul filo della battuta. Dunque, Vincenzo Miglietta, quali sono state le reazioni a questa mattinata? Ma allora, in generale, come al solito qui da Confindustria, la platea si allinea abbastanza con le tesi degli industriali, e questo è il commento dei vertici delle tante aziende presenti qui all'auditorium di Confindustria. Possiamo sottolineare qualche nota divergente da parte del sindacato. Il leader della CGIL Camusso ricorda bene le parole di Squinzi, ma è necessario fare di più sul fronte del lavoro, sul fronte del cuneo fiscale, perché nelle buste paghe dei lavoratori rimanga qualcosa rispetto a quanto promesso nel passato. In generale, Simone, giudizi positivi da parte delle principali aziende italiane, possiamo citare l'ENI, le Poste, Finmeccanica, giudizi positivi soprattutto laddove Squinzi sottolinea la necessità che il Paese torni a crescere, che venga coinvolta l'Europa, perché di rigore si può morire, ha detto più volte recentemente il Presidente di Confindustria. E allora chiudiamo, prima di andare a chiudere, ci sentiamo un altro passaggio dell'intervento di Squinzi, del presidente di Confindustria, a proposito soprattutto e in particolare del fisco. I mali fiscali italiani restano intatti, non dico nulla di nuovo. Abbiamo un fisco punitivo e di intensità unica al mondo. Scoraggia gli investimenti e la crescita, esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare. Ma questo non è nemmeno il problema più grave, perché il fisco italiano è anche opaco, complicato, incerto nella norma. Quanto di peggio si possa immaginare per un investitore. Il fisco italiano sembra dire agli imprenditori che crescere non conviene, perché al crescere delle dimensioni aumentano oneri amministrativi, fiscali, previdenziali. Per anni abbiamo sentito promesse: il carico fiscale sarebbe stato alleviato, le regole semplificate, il rapporto fisco-imprese reso più trasparente e certo. Nulla di tutto ciò è accaduto. Conosciamo la situazione dei conti pubblici e sappiamo che non ci sono spazi per grandi interventi. Molte cose si possono comunque fare. Il peso fiscale può essere riequilibrato e non deve essere usato contro chi produce imprese e lavoratori. E siamo praticamente in chiusura. Un ringraziamento al nostro Vincenzo Miglietta, che ha seguito l'Assemblea di Confindustria da Roma, a Filippo Aureggi in regia, a tutti voi per l'ascolto. Vi ricordo che trovate altri dettagli anche su quello di cui abbiamo parlato oggi su www.radio24.it. Italia in controluce torna domani.